Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia che, nonostante la voce in netto calo, cercheremo di portare fino alla fine, fino alle 18.30. Oggi sarete con me, domani torna Sebastiano Barisoni. Di che cosa parleremo oggi? Beh, in primo piano c'è senza dubbio il rapporto del Centro Studi di Confindustria, un rapporto del Centro Studi che oltre a rivedere al ribasso la stima di crescita tanto per il 2016 quanto per il 2017, nel 2016 il PIL è visto in crescita dello 0,7%, per il 2017 dello 0,5%, quindi un taglio ci si aspettava, secondo le indicazioni precedenti, per il 2016 un più 0,8% e per il 2017 un più 0,5%. Come dicevo, al di là della revisione della previsione di crescita, affonda ancora il coltello in quella che è la grande piaga italiana, una vera e propria stagnazione che ci portiamo avanti da almeno 15 anni, se non di più. Solo per darvi un'idea, tra il 2000 e il 2015 il PIL è aumentato in Spagna del 23,5%, in Francia del 18,5%, in Germania del 18,2% e in Italia è sceso dello 0,5%. Questi sono i dati forniti freddamente dal Centro Studi di Confindustria e che testimoniano il fatto che il problema non sono gli 0, che pure contano soprattutto ai fini del deficit, poi ai fini anche della manovra, se vogliamo, e quindi di come ci presentiamo in Europa nel rapporto tra deficit e PIL, che quindi comprende entrambi i numeri, il problema vero è proprio questa scarsa crescita che caratterizza l'economia italiana, questa anemia costante che attraversa il paese dal punto di vista appunto di come andiamo. Ne parleremo col direttore del Centro Studi, Luca Paolazzi, come facciamo sempre in questi casi, e poi ascolteremo le voci. Tanto il ministro dell'economia Piercarlo Padoan quanto del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. A proposito della crescita in particolare, Padoan dice: la nostra previsione verrà rivista, e questo l'aveva annunciato nei giorni scorsi, verrà rivista a ribasso ma non bassa come la previsione di Confindustria, perché le politiche che intendiamo mettere in atto siamo convinti che stimoleranno la crescita un po' di più. Questo per quanto riguarda appunto il Centro Studi di Confindustria, i dati che riguardano più in generale l'economia italiana. Ci occuperemo di mercati come sempre facciamo. È una giornata, devo dire, non particolarmente brillante, se considerate che il FTSE MIB è praticamente in parità, più 0,01%, il FTSE All Share cede lo 0,01%, l'Europa è più o meno tutta sulla stessa scia dopo una mattinata in negativo, Parigi cede lo 0,03, Francoforte guadagna lo 0,23, un po' meglio fa Londra, più 0,6, mercati che si sono lievemente rivitalizzati rispetto all'andamento negativo iniziale, anche proprio grazie alla partenza di Wall Street. Il Dow Jones guadagna lo 0,6% e lo Standard & Poor's 500 lo 0,64%. Torneremo sul Monte dei Paschi subito dopo aver parlato di mercati, perché ieri, come sapete, Sebastiano Barisoni ha affrontato la questione a livello generale con Alessandro Plateroti. In particolare poi ieri, quando Focus Economia non era più in onda, è arrivata la notizia che, oltre ad aver lasciato Fabrizio Viola, l'amministratore delegato, e lo sappiamo, sostituito da Morelli, se ne va anche il presidente Tononi, che manterrà comunque la carica fino all'approvazione del nuovo piano industriale. Nel frattempo ci sono i sindacati che parlano di inaccettabili retribuzioni dei manager e poi attaccano direttamente il governo, dicono: faccia un passo indietro, dall'ingerenza nelle banche. Questo in particolare il comunicato che arriva dalla CGIL. Ci occuperemo di una vicenda della quale vi abbiamo accennato qualche giorno fa, ed è la vicenda di Hanjin. Che cos'è? È il colosso dei cargo marittimi sudcoreano che ha dichiarato bancarotta. L'ha fatto negli Stati Uniti, diciamo su, appunto, sotto il cappello del diritto americano, il cosiddetto Chapter 11, e questo potrebbe rappresentare un problema notevole soprattutto per il traffico sul Pacifico, e quindi appunto dalla Cina, dalla Corea e dal Giappone verso gli Stati Uniti. Considerate che solo questo vettore rappresenta l'8% di quel traffico, per darvi l'idea. E in questo momento ci sono 66 navi con carichi per complessivi 14 miliardi e mezzo di dollari che navigano in mare aperto senza che nessun porto li accolga, perché il timore è che i servizi non vengano pagati. Dietro c'è una battaglia che è stata messa in atto da grandi operatori, dai tre maggiori operatori nei confronti dei piccoli. Hanno di fatto sostanzialmente fatto un cartello per tirare fuori dal mercato tutti gli altri, e adesso però la cosa inizia a colpire anche vettori di grandi dimensioni come questo, creando dei problemi anche a tutto il commercio mondiale. Infine ci occuperemo di auto. Ci sono i dati sulle immatricolazioni di questa mattina, ma soprattutto la notizia delle ultime ore che il grande fondo BlackRock ha deciso di insieme ad altri di scendere in campo contro Volkswagen, unendosi ad altri azionisti e chiedendo un risarcimento di niente po' di meno che 2 miliardi di euro. Questi saranno i temi di oggi. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp. Le notizie in breve di oggi. Abbiamo parecchi argomenti, quindi le nostre notizie in breve oggi saranno veramente brevi. Per quanto riguarda le materie prime, come sempre, in apertura l'oro in calo dello 0,2% a $1,318 l'oncia, il petrolio in questo momento in risalita, il WTI con consegna ad ottobre guadagna lo 0,46% a $43,7 al barile, il Brent con consegna a novembre più 1,24% a $46,4 al barile. Ci sono queste dichiarazioni di Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea, sul suo predecessore. Credo che Barroso sia una persona onesta e un amico. La vicenda qual è? È l'incarico che Barroso ha avuto per Goldman Sachs. Ha deciso di associarsi a Goldman Sachs, ha rispettato la regola dei 18 mesi, non c'è problema se si passa al mondo del credito e della finanza come altri hanno fatto, ma non con questo gruppo che ha contribuito allo scoppio della grande crisi economica. Mi sono chiesto perché è andato con questo gruppo, dice Juncker. E poi, vabbè, una serie di dichiarazioni di principio sull'Europa. Vorrei che tra 50 anni l'Europa diventasse gli Stati Uniti d'Europa. Non ci dobbiamo occupare delle divergenze, ma trovare terreno comune per muoverci tutti nella stessa direzione. Confermata intanto, a proposito di Europa, l'inflazione è stabile, più 0,2% in agosto, in Italia un meno 0,1%, lo comunica Eurostat, che conferma la stima flash. L'Italia parla il presidente del Consiglio Matteo Renzi. Una mattina ribadisce la sua idea che tutti devono rispettare le regole, non solamente l'Italia e i paesi in deficit, ma anche la Germania, che ha un surplus eccessivo. Se le regole valgono, dice, devono valere per tutti. dice bene Juncker sul tema dei migranti e degli investimenti, e poi parla di manovra. È finito il tempo nel quale i politici consideravano i cittadini un bancomat, non riuscivano a coprire le spese e mettevano una tassa. Da presidente del Consiglio dico che le tasse non aumenteranno, punto, per un motivo molto semplice: le tasse sono troppo alte, bisogna abbassarle. E speriamo che queste dichiarazioni non rimangano solamente di principio. Dice la ministra alla salute Lorenzin che le ipotesi di tagli alla sanità sono solo indiscrezioni, gossip che ho letto con interesse, ma nessuno mi ha parlato di tagli al fondo sanitario. Il fondo sanitario è fissato a 113 miliardi. Dice Renzi, aggiunge, nel 2017 i fondi alla sanità continueranno a crescere. E non ci sarà nessun intervento, nessuna tassa sul fumo, come si è ipotizzato inizialmente. Infine, altre tre notizie in breve. La Banca d'Italia, che annuncia che il debito pubblico segna un altro record. A luglio il debito si è attestato a 2.252,2 miliardi, in aumento di 3,4 miliardi rispetto a giugno. Abbiamo i dati positivi sulle case, sul mercato immobiliare italiano, che segna un nuovo rialzo. Nel secondo trimestre le compravendite registrano un più 21,8% rispetto allo stesso periodo del 2015, migliorando il già un consistente più 17,3% del primo trimestre. E infine la ripartenza, e questo è un elemento importante per tutte le relazioni industriali, della trattativa per il contratto dei metalmeccanici. Lo annunciano in una nota congiunta FIM, FIOM e UILM, precisando che Federmeccanica ha inviato una convocazione per il 28 settembre, anticipando che intende avanzare nuove proposte. E veniamo al primo tema di questa giornata, appunto il rapporto del Centro Studi di Confindustria. Il rapporto è il rapporto scenari economici di settembre, appunto del Centro Studi di Confindustria, dove sono state limate le stime di crescita per il prodotto interno lordo, più 0,7% nel 2016 contro il più 0,8% previsto precedentemente, un più 0,5% nel 2017 contro il più 0,6% previsto precedentemente. Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi di Confindustria. Buonasera Luca, bentornato. Buonasera a te e buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Allora, al di là degli 0, Luca, perché è chiaro che non siamo soddisfatti né di una crescita dello 0,8 né di una crescita dello 0,7, quello che sottolineate ancora una volta nel rapporto è l'anemia della nostra crescita complessiva negli ultimi 16 anni, che è il vero grande problema, no? Assolutamente sì. Citando tre numeri, tra il 2000 e il 2015 il PIL italiano è sceso dello 0,5% cumulativamente, contro un più 18% di Francia e Germania, un più 24% della Spagna. Questo vuol dire che quando nel mondo c'era crescita, come prima della crisi, noi crescevamo meno. Quando nel mondo c'è una recessione, come è avvenuto adesso, e viceversa, succede che noi andiamo indietro più rapidamente. E quando c'è di nuovo la ripartenza facciamo fatica a risalire. Questo è preoccupante. Ci sono due aspetti da sottolineare. Primo, che la nostra capacità di crescere, quello che gli economisti chiamano la PIL potenziale, la crescita potenziale, è più bassa che nelle altre nazioni e peraltro è stata ulteriormente erosa dalla crisi. E secondo, che abbiamo una possibilità di risalire e recuperare dovuta, diciamo, al basso utilizzo di questa capacità produttiva, che è pari circa al 3%, questa possibilità di aumentare il PIL, ma che non riusciamo a farlo. Luca, ci spieghi perché, molto, molto semplicemente, cioè se riesci a darci un'idea del perché avviene questo, cioè che cosa è successo in particolare in questi ultimi 15 anni, ma probabilmente cosa è successo anche prima che ha fatto sì che il paese si ritrovasse in questa condizione. Di rispondere in due minuti a una domanda del genere è praticamente impossibile, quindi facciamo una puntata, diciamo, diamo qualche programma, diamo qualche punto per dare un'idea, per dare un'idea ai nostri ascoltatori. Sull'oggi, diciamo, l'oggi possiamo dire che per quanto riguarda i consumi c'è la necessità e la volontà delle famiglie di costituire un po' di risparmio, che è stato molto eroso durante la crisi per difendere gli standard di vita, i livelli di vita e di consumo. C'è d'altra parte incertezza riguardo al futuro e questo giustifica anche la maggiore propensione al risparmio. C'è un'elevata disoccupazione, nonostante i progressi notevoli avvenuti sul mercato del lavoro dall'estate 2013 all'estate 2016 sono stati creati 770.000 nuovi posti di lavoro e con il Jobs Act e gli incentivi la percentuale dei contratti permanenti o a tempo indeterminato è salita all'80% contro il 40% che c'era prima, quindi è migliorata anche la qualità. Detto questo però rimane un esercito di persone che cercano un impiego, che vorrebbero lavorare ma non trovano un posto di lavoro, oppure diciamo che sono costretti a contratti a tempo parziale, part time, mentre vorrebbero un full time. Tutto questo comprime in giù i consumi. Gli investimenti scontano diciamo una difficoltà, che sono la lentezza burocratica, l'elevata tassazione, la giustizia lenta, tutto ciò che ci mette in fondo le classifiche del facilità di fare l'impresa nel nostro paese rispetto ad altri paesi. C'è una redditività degli investimenti che da noi è particolarmente bassa, siamo ai minimi storici e gli investimenti si fanno se c'è un ritorno che giustifica l'investimento anche in termini, in un certo qual modo, di remunerazione del capitale, magari preso a prestito. C'è diciamo una situazione di nuovo di incertezza sulla domanda, ha detto bene il Ministro dell'Economia intervenendo oggi nel nostro seminario, che sono aspettative che in un certo qual modo si autorealizzano. Io penso che domani la crescita sarà bassa, quindi faccio meno investimenti, questi meno investimenti fanno sì che la crescita domani sarà bassa e quindi ci avvitiamo in questa spirale. E questo è un po' sostanzialmente il discorso. Spesso si sente dire che le imprese italiane non vogliono investire, non sanno investire, non innovano abbastanza. Siamo consapevoli che ci sono, diciamo così, dei margini notevoli di miglioramento, perché abbiamo diciamo una tripartizione delle imprese fra quelle che vanno benissimo, quelle che vanno malissimo e in mezzo diciamo un'area ampia del circa 60% di imprese che non sono né di qui né di là, e bisogna cercare di spostare tutte verso imprese che vanno benissimo, verso l'innovazione, verso l'internazionalizzazione, verso la capitalizzazione e così via. Però non è vero che le imprese italiane non investono abbastanza, la propensione a investire in Italia è doppia che in Francia e in Germania, è paragonabile a quella americana, c'è un'elevata propensione. Sì, tra l'altro Luca, aggiungo, in un paese come il nostro, nel quale le imprese sono storicamente molto dipendenti dal credito bancario, pur con i problemi che hanno le banche in questo momento, questi tassi di interesse dovrebbero favorire gli investimenti, no? Sì e no, nel senso che una volta si diceva che il cavallo deve voler bere perché tu possa dargli l'acqua. Oggi l'acqua in termini di liquidità finanziaria è abbondante, però le banche un po' se lo tengono anche stretta, perché a loro volta non si fidano tanto diciamo della situazione generale e quindi del fatto che poi le imprese saranno in grado di restituire questi soldi, specie quando hai stato ancora oggi, perché ce l'hai ancora aperta la ferita di sofferenze bancarie, cioè prestiti che non vengono ripagati o non vengono remunerati come dovrebbero secondo il contratto, e quindi diciamo le banche sono molto restie a dare questa liquidità, se non a quelle imprese che qui dicevo prima, certo. Quel 20% di imprese che vanno benissimo e che forse non hanno neanche bisogno di credito bancario perché si finanziano tranquillamente sul mercato. Sì. Quindi questo è un ostacolo, diciamo così, il visto che c'è una maggiore prudenza del credito, nonostante i tassi bassi. Sì, non una stretta, ma qualcosa che assomiglia abbastanza ad una stretta, o comunque una grande attenzione delle banche anche per la loro condizione patrimoniale. Una forte selettività. Le ultime due domande che ho per te. La prima riguarda il rischio che non venga concessa flessibilità dall'Europa, e là voi indicate che nel caso non venga concessa, se non c'è flessibilità, insomma, si rischia una manovra correttiva da un punto di PIL, se ho capito bene. Sì, è corretto. Perché diciamo questo? Perché ricordiamo che esiste nella legislazione attuale vigente un incremento delle imposte indirette, in particolare dell'IVA, a partire dal 1 gennaio 2017 per 15,1 miliardi. Di questo una parte verrà eliminata ricorrendo a maggior deficit, circa 6,9 miliardi. Tuttavia la crescita più lenta del PIL, sia quest'anno o l'anno prossimo, comporta un innalzamento del deficit, perché c'è un legame fra l'andamento dell'economia e l'andamento dei conti pubblici, come d'altronde c'è un legame fra l'andamento dell'economia e l'andamento dei conti di un'impresa, certo, o di una famiglia. Non è cattiva volontà politica l'aumento del deficit in questo caso, è dovuto alla cattiva congiuntura, a una congiuntura particolarmente sfavorevole. Questo fa sì che si innalzi il deficit rispetto a quello che era l'obiettivo. L'obiettivo del governo stabilito con le autorità europee dell'1,8% del PIL, siamo, veleggiamo intorno al 2,3, 2,4, 2,5%. Questa differenza deve essere coperta se vogliamo rispettare l'obiettivo, se dobbiamo rispettare l'obiettivo. E questo si aggiunge a quei, diciamo, 15,1 meno 6,9, 8,2 miliardi di cui parlavo prima, arriviamo, diciamo, a circa 16-17 miliardi di manovra. Ovviamente in una condizione di economia semistagnante come l'attuale, una manovra da un punto di PIL è esiziale, cioè significa ripiombare il sistema, rifare inserire la retromarcia, certo, o la contromano, come ha detto oggi il premier Renzi, e questo nessuno di noi lo vuole, per questo c'è bisogno di maggiore flessibilità. L'ultima domanda che ti voglio fare brevemente è sulla proiezione globale del vostro rapporto, perché Italia a parte, voi dite che ci sono una serie di fattori che si stanno concretizzando anche nei paesi più dinamici, e cioè quelli che appunto crescono, ed è la stagnazione secolare. È, diciamo, è un aspetto decisamente preoccupante, perché poi abbiamo visto, no, quando va male anche i paesi più dinamici, l'Italia va peggio. Quindi, per avere un'idea di che cosa intendete. Beh, anzitutto diciamo che non è una condanna biblica il fatto che l'Italia vada peggio quando l'economia non va tanto bene, il resto del mondo non va tanto bene, ed è su questo dobbiamo assolutamente lavorare tutti quanti, e fare in modo, diciamo, che l'economia italiana ricominci a marciare anche in un contesto non così brillante. Stagnazione secolare non è un termine che abbiamo inventato noi, non siamo così stufi, l'ha inventato un economista. Anzi l'ha reinventato un economista che si chiama Lawrence Summers, americano, è stato, diciamo, il ministero del tesoro americano. Questo economista dice che ci sono una serie di fattori, e constatiamo che noi, il rallentamento della popolazione, l'invecchiamento della popolazione, il fatto che le nuove innovazioni non portano a quei guadagni di produttività a cui eravamo abituati in precedenza. Il fatto che alcune grandi economie come la Cina fisiologicamente rallentano, perché raggiunti certi livelli di benessere hai meno, diciamo, rincorsa da fare per arrivare agli standard di vita dell'Occidente, il fatto che ci sono delle misure protezionistiche che vengono introdotte in modo strisciante per difendere le proprie economie da quelle dei concorrenti, tutto questo porta a una crescita del PIL mondiale che è molto più bassa di quello a cui eravamo abituati. Prima della crisi, per un lungo periodo, l'economia mondiale cresceva al 3,5%, su e giù ovviamente, intorno a questa percentuale, e adesso viaggiamo un punto sotto, e questo, diciamo, è quello che chiamiamo appunto stagnazione secolare. Noi dobbiamo cercare di essere capaci di sfruttare al massimo questa più bassa crescita, ma è una più bassa crescita che avviene anche magari in mercati più lontani, più difficili, più complessi, e dobbiamo essere capaci di essere presenti in quei mercati. Ti ringrazio, grazie a Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi di Confindustria, per essere stato con noi. Ti auguro ovviamente un buon lavoro e una buona serata. Prima di andare in pausa a sentire il meteo, per poi ritrovarci e fare il punto sui mercati, vi faccio sentire intanto un passaggio del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. Poi più avanti sentiremo le altre voci nella seconda parte della trasmissione, e anche quella del ministro Padoan, sul tema di quello che bisognerebbe fare adesso, su come bisognerebbe mettersi insieme per cercare di ritirare su il paese. Una logica di corresponsabilità, la chiama Boccia, un patto della crescita e della stabilità. L'idea di un patto della crescita e della stabilità, non della stabilità e della crescita, in chiave italiana, per affrontare la questione italiana e costruire un percorso corresponsabile in cui ciascun cittadino del paese, a partire da Confindustria, che ha tutto l'interesse che questo paese vada bene, perché i nostri industriali sono coloro che investono in questo paese, è una grande sfida che dobbiamo cogliere insieme, il cui metodo vale quanto il merito. Perché un confronto di questo tipo non significa il ritorno alla concertazione, lo dico per chi non ama, diciamo, termini passati, e io non amo, come dire, la questione, come dire, di termine. Però qui possiamo essere attori di una grande proposta per il paese e superare quell'ansietà raccontando un futuro grazie a strumenti che vanno ad individuare la questione crescita. Siamo preoccupati, e questo dobbiamo dirlo, di alcuni orientamenti o richieste, diciamo, di altri che orientano tutta la legge di stabilità o parte delle risorse poche della legge di stabilità sulla questione domanda. E per noi è un errore. È un errore perché se attivi la domanda prescindendo dall'offerta non aiuti la competitività delle imprese. Così dunque il presidente di Confindustria Boccia. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire appunto il meteo, poi parleremo dei mercati, poi più avanti sentiremo anche altre voci su questo tema tra poco. State ascoltando un programma offerto da... Se nella tua azienda c'è INAZ, c'è solo il bello del lavoro. www.inaz.it. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo, 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp. Francamente dico all'ascoltatore Paolo che dice microcredito per far ripartire le piccole aziende, con tutto il bene che voglio al microcredito, non penso che possa questo risolvere i problemi del paese. Dico invece all'ascoltatore che dice parliamo delle piccole e medie imprese, non delle big o delle banche, dice dimezzare le tasse e le spese dello Stato contemporaneamente. Allora sì, benissimo, finché si tagliano le tasse sono contentissimo anch'io. Poi bisogna vedere cosa fanno queste piccole e medie imprese. Cioè, come raccontava Luca Paolazzi, c'è un 20% di imprese che sta andando bene, e tra queste ci sono anche delle piccole e medie, che è proiettata sui mercati internazionali, che fa innovazione, investimenti, ricerca. C'è un 60% che è in mezzo al guado, un 20% che ormai è lontana da questa vetta in netta difficoltà. Quindi il tema è esattamente quello, perché se tu dimezzi le tasse per continuare a fare il terzista a Prato, che in Cina lo fanno meglio di te, è una cosa che non ha un grandissimo senso dal punto di vista produttivo, soprattutto per un paese come il nostro. Però se si tagliano le tasse, bene. Ceo Condina, Radio Cuore, Il Sole 24 Ore, ciao, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Giornata che abbiamo visto in negativo fino alla metà, più o meno, no? Poi è successo qualcosa che tu adesso ci spiegherai, che ha spinto al rialzo la borsa americana, più 0,79% il Dow Jones, più 0,82% lo Standard & Poor's 500, e ha portato l'Italia a chiudere con un guadagno dello 0,34% sul FTSE MIB, dello 0,3% sul FTSE O'Share, mezzo punto percentuale di guadagno per Francoforte, lo 0,88% per Londra, Parigi appena sopra la parità. Vai! Ma precisiamo che questa, come altre sedute degli ultimi giorni, si è rivelata una, diciamo, una seduta molto volatile per le borse. Quello che è successo oggi è il fatto che siano arrivati da una parte dei dati macroeconomici americani abbastanza deludenti sul fronte della produzione industriale, delle vendite al dettaglio, cosa che ha illuso, tra virgolette, gli operatori che nella riunione della prossima settimana la Fed possa lasciare i tassi invariati. Un po' questo ormai il tema di tutte queste sedute, l'attesa per il possibile rialzo dei tassi da parte della Fed. In più Wall Street è salita grazie al rally di Apple, infatti c'è il tutto esaurito per l'iPhone 7, e quindi è chiaro che una volta che Wall Street tira la volata, adesso il Dow Jones guadagna lo 0,8%, questo trascina anche le borse europee. Milano infatti, che aveva vissuto una seduta tutta in negativo, alla fine ha chiuso a più 0,34%. E questo è il quadro per quanto riguarda Milano e per quanto riguarda le prossime sedute, nelle quali, come avete capito, il movimento di un sopracciglio della Yellen o di un presidente di una Fed locale può generare dei movimenti di borsa. Veniamo ai singoli titoli. Inizierei da, vabbè, abbiamo Unicredit che scende del 2,25%, Ferragamo del 2,20%, Mediobanca dell'1,87%, molti bancari tra i negativi, UbiBanca -1,5%, Banco Popolare -1,5%, Popolare Milano -1,43%, Mediaset. Su Mediaset c'è stato un po' il contraccolpo per il fatto che Sky, in particolare il numero uno di Sky Italia, Andrea Zappia, ieri ha sostanzialmente negato l'interesse per Premium, che Premium, come sappiamo, è la pay TV di Mediaset. Come noto, già negli scorsi mesi Mediaset era in trattative con Vivendi per la cessione di Premium, poi queste trattative si sono arenate, per usare un eufemismo, si erano diffuse voci di un interesse di Sky, ieri appunto è stato smentito, il titolo ne ha risentito e infatti ha chiuso, seppur in recupero rispetto al passivo accumulato durante la seduta, -0,36%. Allora, i due bancari che ho solo accennato prima e sui quali vorrei tornare brevemente, Unicredit e UBI. Beh, Unicredit è sotto la lente degli investitori ormai da tempo, oggi perde ancora 2,2%, qui il tema è la vendita di Pioneer, è emersa la possibilità di una cordata composta da Poste, Cassa Depositi Prestiti e Anima, ovviamente poi dipenderà a che valori viene venduto quest'asset. Per quanto riguarda UbiBanca, continua il ribasso, -1,5%, il titolo è in crisi da quando è emersa l'ipotesi piuttosto concreta che possa rilevare le famose 4 Good Bank, ovvero le casse di risparmio di Chieti, di Ferrara, dell'Etruria e delle Marche, un'acquisizione che secondo alcuni analisti potrebbe addirittura costringere UbiBanca a una ricapitalizzazione per puntellare il bilancio. Questo per quanto riguarda appunto Unicredit e UBI. Infine, in cima al listino, non ti chiedo di Monte dei Paschi perché ne parliamo tra un attimo con Luca Davi, in cima al listino abbiamo Moncler +3,87%. Ma Moncler è stata promossa da Morgan Stanley, qual è in brevissimo la teoria di questa banca d'affari? Che il titolo è sottovalutato rispetto ai competitor, ha un upside, cioè un potenziale di rialzo di borsa del 20%. A proposito di lusso, diciamo così, Tod's è stata una giornata pessima oggi, no? Sì, ha perso il 6%, ieri aveva diffusi i conti semestrali, fatturato in calo, EBITDA in calo, utile netto in calo del 25%. Bene, oggi anche Setti Microelectronics +2,22%, Unipulsai +1,97%, Fiat Chrysler, e poi torneremo più avanti a parlare di auto +1,93%, Tenaris +1,89%, Campari +1,64%, Generali +1,6%, Prismian +1,5%, bene anche Buzzi Unicem +1,5% dopo i cali dei giorni scorsi, CNH +1,26%. Grazie. Ciao Condina, Radio Cuore, Il Sole 24 Ore, buona serata, buon lavoro. Allora, traffico e poi andiamo a parlare di Monte dei Paschi. Focus Economia. Bologna-Venezia, viaggetto romantico, io, lei e il sistema Digital Radio. Sentiamo la radio? Certo, ma ascoltiamola in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto grazie all'autoradio digitale. Niente effetto salto, nemmeno se ti sposti per chilometri, perché il sistema Digital Radio non ti lascia mai. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio, il suono perfetto, DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da... Il 56esimo Salone Nautico vi aspetta a Genova dal 20 al 25 settembre. State ascoltando un programma offerto da... Se nella tua azienda c'è Inaz, c'è solo il bello del lavoro. www.inaz.it. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo buonasera da Simone Spezia, 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, molti sul tema dell'industria, su come mai questo paese non cresce da 15 anni. Poi torneremo a parlarne tra poco, sentiremo le voci dal convegno, dalla riunione del centro studi di Confindustria. Un ascoltatore ci scrive: Roberto, tra l'altro, se questo paese è in queste condizioni è perché la classe politica che si è succeduta in questi anni ha sempre fallito. Avrà pure ragione Roberto, però a me questo mi sembra, mi perdoni, ma a cuore aperto, quasi non da giornalista ma da uomo, mi sembra uno scarico di responsabilità pazzesco. Ma chi li ha votati questi? Per tutti questi anni, compresi quelli che hanno portato il debito pubblico ad essere quello che è. Prendiamocene le nostre responsabilità ogni tanto, no? Invece di scaricarle solamente sui politici che hanno le loro colpe, per carità di Dio. Però, le nostre colpe ce le abbiamo anche noi, tra l'altro, anche in mille gesti quotidiani. Dicevamo, la vicenda, una vicenda internazionale invece, a questo andiamo, quella della Hanjin Shipping, colosso dei cargo marittimi sudcoreani, fallita. Era dal 2011 che chiudeva i bilanci in perdita. Finora aveva potuto contare sul credito delle banche trainate dalla Korea Development Bank, cioè dello Stato coreano. Dal 2013 ha tentato varie operazioni per risanare i bilanci, non ci è riuscita. Vale il 3% del traffico mondiale di container, fa l'8% del traffico transpacifico, cioè tra i paesi asiatici e i porti americani. Raul De Forcade del Sole 24 Ore, ciao, buonasera. Ciao Simone, buonasera agli ascoltatori. Allora, al di là di questa storia, come dire, che colpisce e accende la fantasia, se vogliamo, no? Di queste 66 navi con carichi per 14 miliardi e mezzo di dollari che navigano in mare aperto e nessun porto se le vuole prendere perché non sanno se l'azienda o qualcuno è in grado di pagare, e questo, no, è un elemento affascinante. Sì. In realtà, dietro questa vicenda c'è molto di più, c'è di fatto un oligopolio che si sta manifestando nella sua maniera più violenta. Sì, sì, è vero, sì, è così, perché questa vicenda che ha sorpreso un po' tutti, bisogna dire, anche gli operatori dello shipping, perché anche se allarmi se ne erano sollevati, non ci si aspettava che una compagnia di queste dimensioni dall'oggi al domani dichiarasse incapace di proseguire le attività, ecco. E in realtà però ad analisti attenti che in passato avevano guardato il problema, questa cosa sarebbe potuta saltare agli occhi, perché ci sono, e a qualcuno è saltato, faccio l'esempio di Sergio Bologna che ne aveva parlato in sue pubblicazioni. Ecco, quello che succede in realtà è che da diversi anni ormai grandi gruppi... Allora Raul, ti chiedo intanto, scusami, di star fermo se possibile, perché probabilmente sei su un telefono fisso e il movimento del filo, il movimento del filo crea un problema. Chiedo, scusa, è così, sì, allora così mi sentite meglio, spero. Decisamente. Ecco, dicevo, diciamo che ci sono alcuni grandi gruppi che sono i più grandi del mondo, il primo di tutti è la danese Maersk, poi seguono MSC, CMA, ecco, tutti questi gruppi, al settimo posto c'era Hanjin. Questi grandi gruppi stanno avendo il monopolio, diciamo, dei controlli dei container nel mondo, del trasporto container, e da alcuni anni stanno mandando avanti una politica per cui costruiscono navi sempre più grandi, navi che trasportano un numero enorme di container, e quindi in qualche modo fissano loro il prezzo dei noli, in qualche modo dei container, insomma. Sentite ancora? Sì, sentiamo ancora un disturbo. Allora, guarda Raul, facciamo una cosa. Proviamo a richiamarti magari su un cellulare che potrebbe funzionare meglio, ipoteticamente. Intanto cerchiamo di andare avanti con la trasmissione. Innanzitutto facciamo così, con intanto qualche risposta a quello che stavo dicendo prima, insomma, quando rispondevo all'ascoltatore che diceva è tutta colpa dei politici. Io questa, a me questa cosa non piace, l'ho detto abbastanza chiaramente, non ho nemmeno detto che è tutta colpa nostra del popolo italiano, dico semplicemente che ognuno si deve assumere la sua quota di responsabilità anche nei suoi comportamenti quotidiani, in quello che fa appunto quotidianamente, nel suo lavoro, nella sua vita da imprenditore, da lavoratore dipendente, perché lo scarico delle responsabilità solamente sulla classe politica, che ha delle sue enormi colpe e questo lo sappiamo, è secondo me un po' vuoto per certi versi, se non proviamo a guardare anche noi quello che abbiamo fatto e anche noi quello che abbiamo votato. E questo non vuol dire votare per un partito o per l'altro, giusto per chiarire a chi lo chiede via SMS, ma naturalmente è solamente un'opinione. Ancora con Raul De Forcade, ci siamo Raul, finalmente sì, ti sentiamo. Sì. Eccoci, vai. Ecco, allora dicevo, questi grandi gruppi in qualche modo stanno facendo una politica che punta a buttare fuori dal mercato i gruppi più piccoli, e come lo stanno facendo? Con grandi alleanze, numerosi ordini di navi, in modo da poter controllare loro quasi tutto il mercato, e anche provocando in questo modo, con l'eccesso di stiva, cioè con più navi di quelle che la merce, di quelle di cui la merce avrebbe bisogno, una discesa del prezzo dei noli dei container. Ecco, questo ovviamente colpisce i più piccoli, che non riescono a stare dietro a prezzi così bassi e sono costretti a uscire dal mercato o allearsi o farsi comprare. Ecco, e in questo caso però si arriva al fallimento di quello che è un vero e proprio colosso, sì, no? È vero, perché in qualche modo la situazione è andata talmente avanti che questa situazione ha cominciato a colpire anche i grandi, i grandi stessi. Però si noti bene che immediatamente dopo il fallimento di Engine, cioè comunque il crack di Engine, diciamo, immediatamente dopo i noli sono cresciuti e adesso ne stanno godendo gli altri. Ecco, ovviamente, i più piccoli. Tra l'altro la bancarotta della compagnia ha portato alla liquidazione della parte italiana di Engine, no? Certo, ecco, questo è una parte interessante e molto, molto brutta, diciamo, della vicenda, perché si trattava di un'azienda che fino a un mese fa funzionava perfettamente. Tra l'altro un'azienda nata da una joint venture fra la Engine e la Gastaldi, e che non ci si aspettava che potesse avere una simile fine, ecco, immediata e così repentina. Purtroppo invece gli avvenimenti che si sono seguiti hanno provocato la messa in liquidazione della società con 86 persone, posti di lavoro a Genova, 6 a Milano, quindi insomma un disastro. Questo il quadro disastroso della situazione. Grazie dunque a Raul De Forcade del Sole 24 Ore per questo aggiornamento. Intanto, a proposito di navi, il presidente di Ucina, la Confindustria Nautica, Carla De Maria, siamo ovviamente in tutt'altro ambito, ha presentato la 56esima edizione del Salone Nautico di Genova e ha inquadrato la situazione del settore con dati economici che testimoniano il consolidamento della ripresa. Sentiamola al microfono di Andrea Ferro. Lo scorso anno il mercato aveva dato segnali di ripresa, ma erano timidi e temevamo che non avesse continuità. Invece oggi con determinazione possiamo dire che il mercato interno è tornato e con dei numeri che sono di enorme soddisfazione. Noi pubblicheremo la 38esima edizione della Nautica in Cifre durante il Salone di Genova, che è lo strumento che appunto da oltre 30 anni riporta i dati del comparto. Quello che è più interessante è che pubblichiamo un 17,1% di crescita della produzione 2015 rispetto al 2014. Avevamo dato un'indicazione di 12% di inizio anno e qualcuno ci aveva detto è molto ambiziosa, in realtà la superiamo di 5 punti, quindi questo è estremamente, estremamente interessante. Quindi a 2 miliardi e 9 sforiamo i 3 miliardi e quindi è una bella ripartenza, ma non è il solo dato positivo, perché ci sono più dati positivi tutti nella stessa direzione. E tra l'altro Radio 24 sarà presente al Salone Nautico, vi diamo appuntamento là. Andiamo a sentire il traffico e poi ritorniamo a parlare di industria con le voci raccolte da Vincenzo Miglietta appunto al rapporto, alla presentazione del rapporto Scenari Economici di settembre del Centro Studi di Confindustria. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo, dunque i dati del Centro Studi di Confindustria, ve li dicevamo anche in apertura, più 0,7% la previsione per il 2016, più 0,5% la previsione per il 2017, con un'Italia ferma da 15 anni, Spagna più 23,5% il PIL, Francia più 18,5%, Germania più 18,2%, Italia meno 0,5%, mi sembra il dato più impressionante di tutto questo, anche a chi ci sta scrivendo a proposito del tema dei politici, parlando di Monti, Letta e Renzi, che avranno ciascuno le sue colpe, siamo d'accordo, quando ci sono le denunciamo, però non è che stiamo parlando degli ultimi tre governi, eh? Intervenuto anche il ministro dell'economia, Piercarlo Padoan, così sulle stime del governo. Osservo solo che le stime del governo, che saranno contenute nella nota di aggiornamento al DEF che il Consiglio dei Ministri approverà la prossima settimana, dovrebbero essere migliori di quelle del Centro Studi Confindustria, sia per il 16 che per il 17. Perché? Ma non entro nelle cause, noto solo una cosa, che la stima della Centro Studi Confindustria, se l'ho ben capita, si basa su ipotesi di policy, diciamo di quadro programmatico, chiamiamolo così, che sono diverse da quelle che il governo intende proporre. Ma non è questa una ragione di polemica, tutt'altro. Direi che io prendo le stime del Centro Studi Confindustria non come una polemica, ma come una sollecitazione a prendere le misure giuste e quindi dimostrare che queste stime sono sbagliate, ma per ragioni che penso sarebbero benvenute anche dal Confindustria. La riduzione delle tasse dall'inizio del governo ha colpito o ha beneficiato molti settori, continuerà nel 2017 con misure già introdotte dalla stabilità 16, mi riferisco all'IRES, e ovviamente stiamo vedendo cos'altro si può fare. Quindi riduzione delle tasse, primo pilastro della strategia del governo, con implicazioni sul cuneo fiscale, che è una grandezza importante in sé, è una grandezza la cui valutazione a livello di Ecofin Eurogruppo si sta dimostrando molto importante nel valutare le linee guida di politica economica che i paesi in un'unione monetaria devono seguire. Così Padoan a guardare i dati sulla crescita, il presidente di Confindustria Boccia dice che ci vuole una grande intesa per il paese, un patto per la crescita. Crescita che va prima di stabilità, sentiamo. L'idea di un patto della crescita e della stabilità, non della stabilità e della crescita, in chiave italiana, per affrontare la questione italiana e costruire un percorso corresponsabile in cui ciascun cittadino del paese, a partire da Confindustria, che ha tutto l'interesse che questo paese vada bene perché i nostri industriali sono coloro che investono in questo paese, è una grande sfida che dobbiamo cogliere insieme, il cui metodo vale quanto il merito, perché un confronto di questo tipo non significa il ritorno alla concertazione, lo dico per chi non ama, diciamo, termini passati, e io non amo, come dire, la questione, come dire, di termine, però qui possiamo essere attori di una grande proposta per il paese e superare quell'ansietà raccontando un futuro grazie a strumenti che vanno ad individuare la questione crescita. Siamo preoccupati, e questo dobbiamo dirlo, di alcuni orientamenti o richieste, diciamo, di altri che orientano tutta la legge di stabilità o parte delle risorse poche della legge di stabilità sulla questione domanda. E per noi è un errore. È un errore perché se attivi la domanda prescindendo dall'offerta non aiuti la competitività delle imprese. Così dunque il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia E visto che stiamo parlando di industria, sull'industria rimaniamo. Nell'industria dell'auto, nella fattispecie. Il mercato europeo dell'auto ha frenato in luglio, ha chiuso con un segno negativo, anche se ha recuperato nel mese di agosto. Andrea Malan del Sole 24 Ore, buonasera. Sì, buonasera a tutti. Ciao Andrea. Allora, partirei da qua, perché il settore dell'auto ha effettivamente trainato la nostra produzione industriale nell'ultimo periodo, direi negli ultimi 30 mesi, insomma, più o meno. Qualche segnale di cedimento forse si inizia a vedere o no? Beh, diciamo che il dato di luglio è anche influenzato da un giorno lavorativo in meno, probabilmente a parità di giorni comunque le vendite sarebbero cresciute, così come quello di agosto, che è particolarmente positivo, più 10%, è influenzato da un giorno in più. Quello che conta, diciamo, che se prendiamo il bilancio degli 8 mesi, siamo ancora un più 8 abbondante per le vendite di auto in Europa, che è un dato indubbiamente positivo, e siamo, lo sappiamo, i dati sono stati annunciati il primo settembre, a un dato positivo anche per l'Italia, che a agosto ha fatto benissimo con più 20, è stato il mercato più brillante tra i 5 grandi europei. Quindi per ora quello che si temeva di più da un paio di mesi a questa parte, cioè l'effetto negativo della Brexit, non c'è stato. Le vendite hanno continuato a crescere anche in Gran Bretagna, sia pure meno che negli altri paesi, ricordiamo però che le vendite a Londra erano cresciute molto negli anni precedenti, quindi il clima rimane prevalentemente positivo, certo l'incertezza resta sia sull'effetto della Brexit di medio periodo sia sugli altri fattori congiunturali, questo è indubbio. Brevemente Andrea, perché abbiamo veramente 30 secondi, bene anche Fiat Chrysler, no? Fiat Chrysler ha sfruttato ovviamente il buon andamento del mercato italiano e ha aumentato ancora la quota di mercato, segnando nel mese di agosto un più 20 contro appunto il più 10 del mercato, quindi ha rosicchiato ancora un po' di quote, e tornando al discorso iniziale, appunto, cioè positivo perché in parte almeno si tratta di auto prodotte in Italia, anche se non solamente. Ti ringrazio. Grazie Andrea Malan del Sole 24 Ore. Avremmo voluto parlare, ma non abbiamo tempo. Magari ci si tornerà sull'altra notizia di oggi che riguarda Volkswagen. L'abbiamo data poco fa. BlackRock, che scende in campo contro Volkswagen unendosi ad altri azionisti, e chiedono un risarcimento di 2 miliardi di euro alla casa tedesca per il modo nel quale ha gestito il Dieselgate, ossia lo scandalo emissioni. Grazie Barbara Bianchi, Mauro Del Corno in assistenza in redazione, Pietro Lacorte in regia. Un grazie a tutti voi per l'ascolto, da Simone Spezia, e una buona serata. Radio 24. La passione si sente.